9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, lunedì 26 settembre. Tre punti oggi all'ordine del giorno della nostra trasmissione. Il primo è stato questo fine settimana di tregenda per tutti i politici che hanno responsabilità economiche e finanziarie europee, che nel fine settimana sono stati bombardati, presi a schiaffi, derisi, portati alla sbarra dell'accusa praticamente di tutti gli altri paesi, sia quelli in via di sviluppo che degli Stati Uniti, con l'accusa di essere ciechi, sordi, di non capire che stanno mettendo praticamente dinamite vicino al fuoco per via della crisi dell'euro debito, con le reazioni all'inizio dei tedeschi abbastanza sorpresi per l'intensità e la durezza delle pressioni per fare rapidissimamente ciò che in questi due anni delle elezioni greche l'Europa non ha saputo fare, per mettere una cintura di sicurezza al rischio che salti l'euro. E poi nel procedere del fine settimana i toni sono diventati travolgenti, perché si sono aggiunti alle reprimende americane, quelle già sentite al G7 di Marsiglia, quelle sentite all'Ecofin, si sono aggiunti i pressanti inviti di tutti i maggiori paesi, gli ex emergenti, diciamo così, le locomotive della crisi che hanno iniziato a frenare le locomotive della crescita, perdonate, che hanno iniziato a frenare anche loro in questa seconda parte dell'anno. Il Sunday Times ha coniato questa formula che è diventata quella di successo per dare l'idea di quanto deve essere levereggiato, aumentato l'FSF, lo strumento di intervento che è il più che l'Europa è riuscito a partorire, uno strumento di intervento per soli che passava da 200 a 400 miliardi, ma che ha bisogno di un voto tutte le volte che interviene. L'idea è quello di farlo diventare un grande CDO, in altre parole uno strumento al quale apportare collaterale di qualunque qualità per consentirgli di passare con una leva finanziaria di 7-8 fino alla capacità di 3-4 mila miliardi di euro di intervento. È una formula giornalistica, perché in realtà basta leggere i primi commenti che ci sono alla stampa specializzata da parte degli osservatori finanziari per capire che questo innalzamento a chiacchiere è facile, è una bella formula giornalistica. A parole, visto che i parlamenti europei non sono riusciti ancora ad approvare il quarto round di aiuti alla Grecia, quello approvato a fine luglio, il Bundestag non l'ha ancora fatto, la Slovacchia l'ha ulteriormente rinviato, l'Olanda è a metà, credere che in poche ore ci possa essere una convergenza di questo tipo è una bella speranza, ma è lungi dall'essere la realtà europea. Ma di fatto l'Europa è stata chiamata a rispondere di questa sua incapacità e irresponsabilità di fronte all'enorme rischio che ha aperto e di fronte alla responsabilità di aver reiniziato a frenare il commercio mondiale, perché il grande rischio è che saltino le banche, esattamente come nel post Lehman Brothers. E questo è il primo punto da tentare di capire, sempre che sia possibile. Ovviamente le reazioni che trovate sui giornali internazionali sono le più varie e diverse da queste. Paul Krugman continua a dire, questa volta rivolti verso gli europei, non solo verso gli americani, che stanno sbagliando tutto, credendo di dover fare meno deficit pubblico. Voglio spiegare ai tedeschi e agli olandesi, ovviamente, che bisogna fare più deficit pubblico. Ma al di là di questo, il primo filone è capire rapidamente se l'Italia può aspettarsi una vera accelerazione a seguito degli incontri di Washington che metta sotto tutela la Grecia, tanto per cominciare, ma poi anche noi che siamo il vero banco di prova per la tenuta, per l'ottenuta dell'euro. Vedremo quindi gli spread oggi e domani. Questo primo punto. Secondo punto, attesa per lo strappo che Confindustria ha fatto la scorsa settimana, dicendo che questa a metà settimana, mercoledì, presenta questo piano per salvare l'Italia, non perché si sia montata la testa, ma perché convinta che sul sostegno alla crescita ci sia bisogno di una discontinuità vera rispetto alle doppie manovre, quella di luglio e quella di agosto. La crescita manca, l'abbattimento del debito pubblico, dello stock del debito pubblico manca. Su queste due cose, ha detto Confindustria, ci siamo stancati di aspettare, non servono i pannicelli caldi che ci propone il governo, quindi o si fa una discontinuità con provvedimenti veramente efficaci e rapidi, oppure ci vuole la discontinuità politica. Mercoledì la presentazione di questo manifesto, tentiamo di capire anche cosa ne pensano le altre associazioni di impresa, Diciamo che c'è un doppio trattamento nel fine settimana da parte dei giornali, i più che guardano con speranza e spiegano perché questo ulteriore strappo rispetto a un paese nei cui consensi cade il governo, e i giornali di centrodestra che in testa tutto il giornale hanno iniziato a dire che Marcegaglia non paga le tasse, hanno iniziato a dire che Marcegaglia vuole tassare e ritassare, quindi derisione la linea di difesa del centrodestra, almeno secondo il giornale. Terza cosa, il Presidente del Consiglio ieri interviene telefonicamente a una festa del PDL nella provincia di Cuneo e annuncia, non solo conferma che non ha intenzione di dimettersi, ma questo era chiaro, ma annuncia per questa settimana un decreto con 27 punti per la crescita. Pare di aver capito, almeno da quello che si trova sui giornali e da ciò che ha detto ieri telefonicamente. Tentiamo di capire in che cosa possono consistere. I giornali ieri e l'altro ieri sono stati pieni di cronache nelle quali si delineava la solitudine del ministro Tremonti a Washington rispetto a una presidenza del Consiglio e un PDL che parla esplicitamente di una task force che non lo comprende, in mano alla quale mettere le misure per la crescita e il timone della politica economica, e la reazione di Tremonti: non mi dimetto, ci provo a cacciarmi via, non possono muoversi di un millimetro, nell'Europa il Fondo Monetario crede in me, vuole me, e il sottinteso era: non questa banda di incompetenti che si improvvisano economisti e ministri della domenica. Questi tre punti vediamo con i nostri ospiti di capirli meglio. In questa prima parte della trasmissione abbiamo con noi Roberto Zuccato, che è il presidente di Confindustria Vicenza. Buongiorno presidente. Buongiorno dottor Giannino. E Guido Crosetto, sottosegretario alla difesa PDL, uno degli esponenti del PDL che più coraggiosamente e esplicitamente da quest'estate ha iniziato a esprimere le proprie opinioni, talvolta anche criticando in maniera tagliente, sul fatto che bisognava fare di più, che bisognava dare una botta al debito, alla crescita e in maniera più credibile anche alla spesa italiana rispetto al corpo delle due manovre di luglio ed agosto. Buongiorno onorevole Crosetto. Posso cominciare da lei, onorevole, perché non voglio neanche rubarle troppo tempo, anche perché la festa a cui ha parlato Berlusconi ieri era una festa che era organizzata dal PDL a Cuneo, quindi insomma la sua area elettorale. Lei aveva parlato anche il giorno prima. Innanzitutto, prima di chiedere la sua opinione, ma in realtà Berlusconi ha annunciato che cosa, sentendolo lì? Perché i giornali non sono molto precisi su questo. Cioè, in questa settimana che cosa ci dobbiamo aspettare da parte del governo? Grazie per averlo sentito ieri. Io poi c'è stata una successiva nel pomeriggio, ho letto sempre sui giornali in Puglia, ha annunciato che questa settimana il governo avrebbe dichiarato gli interventi che voleva fare per la crescita, cioè per far sì che il prossimo anno il nostro prodotto interno lordo non aggravi ulteriormente i problemi che già ci sono adesso, sia di finanza pubblica sia di tenuta complessiva dei conti pubblici. Per cui questo mi pare che abbia annunciato. Poi ho letto anche io i 27 punti che penso abbia detto in un intervento successivo. E lasciando perdere ciò che non può dirci, cioè non può interpretare il pensiero del Presidente del Consiglio, ma dal suo punto di vista invece, e il dibattito che si è aperto nel PDL, non sto parlando di successione, elezioni e tutta la parte riguardante le primarie, diciamo la parte interna della vita democratica del partito e di come attrezzarsi alle elezioni, quella del dialogo tra Formigoni, Alfano, Cicchitto e così via, per la parte che riguarda invece le misure economiche, lei è stato spesso esplicito. Dal suo punto di vista, come dovrebbe rispondere il governo a richieste tipo quella degli industriali? Ma secondo me il governo non ha alternative, non una risposta, la più alta e più seria risposta possibile. Cioè noi dobbiamo cercare di fare quelle misure che in Italia dovrebbero essere fatte da anni, che sono quelle di ridurre il costo dello Stato, perché se il costo dello Stato è insostenibile per anni, bisogna iniziare a pensare di disegnare lo Stato che abbia un costo sostenibile. È meglio iniziare subito per non doverlo fare tra 5, 10, 20 anni, visto che già la dimostrazione l'abbiamo avuta che il costo dello Stato italiano è insostenibile, la pressione fiscale anche. Secondo, affrontare immediatamente il problema del debito, e si affronta in un solo modo: prima di chiedere soldi ai cittadini, visto che lo Stato soldi in qualche forma, che siano azioni di società quotate in borsa, grandi società, che siano pezzi di terra, immobili, spiagge, le ha, inizi a vendere quelle, non a svendere, a vendere, trovando i meccanismi che facciano sì che non sia una svendita, come potrebbe essere un periodo di difficoltà economica complessiva, finanziaria come questo, e i meccanismi anche questi ci sono. Terzo, affrontando il problema della crescita, cioè di cercare di far crescere questo paese. Il ministro Tremonti dice la crescita non si fa per decreto, cioè non è lo Stato che fa la crescita, ha ragione, lo Stato la fa soltanto quando ha possibilità di immettere molti soldi nella spesa pubblica, e non è questo il caso. Molto spesso però lo Stato è quello che frena la crescita, e quindi probabilmente gli interventi che noi dobbiamo fare sono quelli per eliminare quelle tante cose che nel nostro paese frenano la crescita. Quindi si può fare un intervento a costo zero, un qualche modo di riequilibrio fiscale, si può fare un intervento, io mi auguro molti interventi, che in qualche modo taglino alcuni di quei lacci che bloccano la crescita. Noi siamo un paese nel quale, se prendiamo il rapporto del World Economic Forum, siamo al 43esimo posto come capacità di competizione, lo siamo per diversi motivi. Il mercato del lavoro nostro è al 140esimo posto, cioè per la flessibilità, per la difficoltà di licenziamento, assunzioni, per i costi. Il mercato del credito nostro è al 70esimo posto, il che vuol dire che c'è una difficoltà eccessiva rispetto ad altri paesi di accedere al credito, di strumenti per il credito innovativi. La giustizia italiana è al 120esimo posto, perché l'efficienza di uno Stato è data da tutte le componenti dello Stato. La burocrazia italiana è una burocrazia che magari fa perdere agli imprenditori 3, 4, 5, 6 anni per poter fare un investimento. Cioè, ci sono mille temi su cui si può investire. Ce ne sono anche gli innovativi, lo cito solo ad esempio. La Cina pensa di avere nel 2025 il 15% del PIL che deriva dalle staminali, dall'applicazione staminale. Nel nostro paese non c'è una legislazione che consenta ad esempio a qualcuno nel mondo italiano di investire in quel settore. Quindi i temi su cui si può investire a costo zero per cercare di innescare meccanismi di crescita sono moltissimi. Il dovere del governo è proporne alcuni e ascoltare chiunque, da Confindustria agli artigiani, agli agricoltori, agli economisti, abbia qualcosa da proporre che sembri di buon senso, e metterlo in un decreto che faccia capire all'Italia innanzitutto e al mondo che vogliamo crescere. Oggi c'è un'intervista al Corriere della Sera di Renato Brunetta che dice: sia Tremonti ad attuarle, ma basta antibiotici, non può essere lui l'unico regista. Nel rapporto con il ministro dell'economia, non le chiedo a lei personalmente le sue critiche, le chiedo un'altra cosa: la valutazione di come il partito, il PDL, è in grado di ottenere in tempi rapidi, perché quelli che dobbiamo affrontare hanno bisogno di misure rapide, ma di ottenere una efficace soluzione dei rapporti, sistemazione, come la vogliamo chiamare, dei rapporti tra ciò che il PDL crede che si debba fare, lei ha detto ascoltare e assumere misure, tra ciò che si può fare nel governo e anche nel rapporto tra Berlusconi e Tremonti, che è un po' la cosa delicata da mesi a questa parte. Secondo lei quale può essere la sistemazione di questo nodo? Ma io adesso, mi scusi la franchezza, non possiamo permetterci di perdere tempo nel cercare di ragionare chi non ha voglia di ragionare. Quindi, cioè, i problemi caratteriali siano difficili da risolvere, forse più di quelli economici. Cioè, bisogna che il PDL, la maggioranza, decida che interventi fare, e siccome il ministro è un pezzo della maggioranza, non è la totalità e non è la maggioranza, se cioè non è al controllo il governo, ascolterà quello che la maggioranza gli dice. Quindi, metterà la sua firma sotto gli interventi che magari tutto il resto del paese considera interventi positivi. Se poi lui avrà un giudizio negativo, potrà agire di conseguenza, ma l'importante è che in questo momento si facciano delle cose. L'atteggiamento di dire su tutto io, non ho nulla da sentire, non c'è nulla che possa, nessuno che possa dirmi qualcosa di nuovo, qualcosa di intelligente a cui io non abbia già pensato, ha senso se c'è una proposta che in qualche modo ci convince. Io di proposte non ho ancora viste, quindi se non ci sono proposte da parte sua, ce ne saranno da parte del resto del mondo, e si deciderà di seguire quello. C'è il Consiglio dei Ministri delegato a queste scelte, il Consiglio dei Ministri e maggioranza deciderà come fare. Bene, mi pare che come sempre Crosetto non deluda chi insomma chiede parole chiare. Io saluto e lo ringrazio per il tempo che ci ha dato. Vediamo con il presidente di Confindustria di Vicenza, Zuccato, di tornare su questo punto in attesa del manifesto che esce di Confindustria, annunciato per mercoledì. L'impressione che ha avuto con i suoi associati all'annuncio di questa iniziativa e ai giudizi espressi da Confindustria nei confronti della discontinuità necessaria per crescere o politica, se la politica non capisce, tra i suoi associati questo nuovo passo, questo che fa storcere il naso a una parte del governo, a una parte dei giornali amici del centrodestra, invece nella sua area territoriale, nella sua nonna, tra i suoi iscritti, come viene vissuto e come viene percepito? Ma sicuramente come un'iniziativa che andava fatta. Oggi pomeriggio abbiamo giunta e discuteremo a fondo di questo tema che ho avuto modo di discutere invece in consiglio direttivo e giunta la settimana scorsa, e devo dire che le reazioni scomposte che abbiamo sentito in questi giorni da parte di alcuni esponenti riguardo alla nostra Presidente, tipo anche il fatto che adesso si stia riposizionando in prospettiva futura di cambiamento, mi sembrano fuori luogo. Io vorrei ricordare alcuni mesi fa, quando la nostra Presidente ricordò che non era vero che l'Italia andava meglio degli altri paesi, e fu massacrata da dossier vari per contrastare questa sua affermazione. Non vorrei che oggi si ripartisse allo stesso modo. Le proposte che sono state portate avanti e credo che siano proposte che vanno nel senso, nella direzione che bisogna puntare assolutamente alla crescita per rilanciare lo sviluppo del paese, e per fare questo è necessario liberare una quota di risorse che oggi purtroppo sono ingabbiate dallo Stato. Ecco perché i 5 punti fondamentali che sono stati indicati vanno nella direzione di fare delle proposte concrete che a costo zero permettano di liberare risorse per puntare finalmente a questa crescita. È un segnale che dobbiamo dare anche all'Europa, al resto del mondo, perché i 400 punti di spread sui quali stiamo navigando oggi, di differenza tra bond e BTP, sono un segnale forte. Oggi gli associati, tutti noi, siamo preoccupatissimi di questo grande rischio del credit crunch che sta avanzando. Oggi lo vediamo tutti, la situazione è quasi peggiore del 2008, perché le aziende arrivano da anni di sofferenza, mentre prima era la fine di un periodo di espansione. Lo stesso sistema bancario oggi presenta sofferenze importanti, specie le banche del territorio, quelle che sono state i maggiori artefici del sostegno delle nostre imprese, anche loro oggi ovviamente devono fare i conti con una situazione nuova e quindi di grandissima attenzione. Ecco che le nostre aziende oggi soffrono due problemi fondamentali. Uno è la rarefazione del credito, per i motivi che ho appena spiegato, e l'altro è l'aumento dei tassi dovuti al fatto che ovviamente le banche, anche per poter finanziarsi, per poter fare raccolta, lo devono fare a un costo elevato che ovviamente è condizionato anche dagli spread da quei famosi 400 punti, basis points, sui quali oggi i nostri BTP devono scontare nei confronti dei bond tedeschi. Quindi è una situazione di grandissima difficoltà, bisogna intervenire subito. Il tempo è scaduto da quello che sappiamo nel tavolo intercategoriale con il ministro Tremonti, viene ribadito il fatto che questa roba non si fa, che bisogna parlare d'altro. Ecco, noi come Confindustria abbiamo deciso di avere una posizione ferma, forte, perché o si cambia direzione oppure bisogna prendere delle decisioni che vadano in questo tipo. Bisogna prendere considerazione della situazione che oggi è veramente davvero difficile. È veramente davvero difficile. In un'intervista oggi a QN, quindi Carrino Nazione, alla catena di quei quotidiani, il segretario della UIL, Luigi Angeletti, così commenta l'ipotesi, anzi l'annuncio del manifesto di Confindustria. Il governo scelga o fa o getta la spugna, dice il leader della UIL. Da questo punto di vista, dice, chiedere i provvedimenti per la crescita è sacrosanto. Non c'è più tempo per le chiacchiere, sulle parole testuali, il governo scelga o fa o getta la spugna. Mi dico, è questo che va fatto? Risposta sì. Credo che sia possibile averlo in tempi rapidi, non lo so. La cosa migliore sarebbero in realtà le elezioni, un governo tecnico farebbe solo perdere tempo. L'unica soluzione praticabile sarebbe il voto anticipato. Questa è l'opinione a commento del manifesto che uscirà mercoledì di Confindustria, presentato con la dizione che ha fatto un po' sussultare il governo per salvare l'Italia, del segretario della Luigi Angeletti. Eccoci tornati in studio. Nel frattempo agenzie internazionali rilanciano il prosieguo delle reazioni all'idea di innalzare fino a 3.000 miliardi con un'azione di leverage, cioè di innalzamento della leva finanziaria alla dotazione dell'FSF. Ci sono anche critiche rilevanti, per esempio il governatore della Banca Centrale Irlandese Patrick O'Nohan dice a me sembra una soluzione molto problematica perché i governi decidano loro se alzare la leva finanziaria di quello che hanno deciso di mettere come proprio finanziamento per quota parte all'FSF. Cosa diversa se questa cosa implica un rapporto con la Banca Centrale Europea. Naturalmente il governatore irlandese fa parte del sistema europeo della Banca Centrale, perché in quel caso non credo proprio che la Banca Centrale Europea sia facilmente favorevole a meccanismi di innalzamento della leva finanziaria, perché occorrono risorse reali, altrimenti i politici poi le chiedono ai banchieri centrali. Un'opinione tagliente che ci fa capire quanto profonda sia la ferita dell'atteggiamento tedesco, che ha chiesto alla BCE di comprare i titoli, cosa che non spetta a una banca centrale, per non dire agli elettori tedeschi, al Bundestag, votiamo per innalzare la nostra quota nazionale all'interno del meccanismo automatico di salvataggio. L'FSF non è automatico, perché deve votare naturalmente con meccanismi di veto possibile. Altra notizia a cui far caso dal punto di vista dei tempi e della ragionevole attesa di alzare davvero uno strumento comune con adeguato finanziamento e capacità di intervento automatico e tempi rapidi di fronte a crisi greca e crisi italiana. Tenete conto che Sarkozy ha perso le elezioni al Senato nel fine settimana in Francia, e quindi nel Senato per la prima volta dal 1958 si va a una maggioranza di sinistra, quindi significa grande freno ad adozioni tipo in Costituzione del vincolo di bilancio, dell'azzeramento del deficit. In più si aggiunge il fatto che anche il Fondo Monetario ha un problema di rifinanziamento, perché Christine Lagarde, che è successa a Strauss-Kahn alla guida del Fondo Monetario, a Washington in questi due giorni ha proposto di innalzare la dotazione finanziaria per gli interventi straordinari di aiuto del Fondo Monetario da 940 miliardi di euro a 1.300 miliardi, quindi c'è anche questo parallelo rifinanziamento in corso. Per questa settimana attese comunque decisioni per quello che riguarda la Grecia. Il ministro delle finanze Venizelos ieri greco si è lasciato sfuggire di bocca che in realtà un haircut, un taglio cioè del capitale dovuto ai creditori del 50%, sarebbe ciò di cui il suo paese ha bisogno. Questo per farvi capire come oramai il semi default da guidare e pilotare della Grecia è ammesso fuori dai denti anche dal suo stesso ministro delle finanze. Ci ha raggiunto telefonicamente Mariano Bella, che è, lo abbiamo invitato molte volte, il direttore dell'ufficio studi della Confcommercio. Insieme a lui e con il presidente Zuccato, il presidente Confindustria di Vicenza, vogliamo continuare a ragionare intorno a quello che le imprese chiedono con urgenza al governo di fare per restaurare la credibilità dell'Italia in questa bella confusione della tenuta dell'eurodebito, ma soprattutto per evitare che l'anno prossimo, anche per effetto delle manovre aggiuntive oltre che per il rallentamento del commercio mondiale, finiamo con la crescita meno, il che renderebbe non più credibile il piano di azzerare il deficit con un debito pubblico che al denominatore con un PIL al denominatore che scende, e soprattutto accrescerebbe i problemi di un paese che da 15 anni cresce così poco. Allora, Mariano Bella, dal suo punto di vista, naturalmente non le chiedo di esprimere un'opinione di Confcommercio, non è il presidente, non ha il nome degli organi, ma insomma, l'iniziativa che ha preso Confindustria può vedere un passo avanti comune e congiunto? Secondo voi c'è un interesse convergente per questa discontinuità, oppure chiedere la discontinuità dal suo punto di vista è comunque una cosa un po' impropria che forse non aiuta, troppo traumatica? Come la vede Mariano Bella? No, vanno bene i manifesti, vanno bene le richieste di discontinuità, perché certo così non si può andare avanti. Forse diciamo il tono è un po' perentorio, almeno da quello che ho letto dai giornali, ecco, insomma, dare una settimana di tempo forse un po' poco. Il discorso della convergenza tra le varie parti sociali e soprattutto quelle che le organizzazioni datoriali è un fatto possibile, però ci deve essere una convergenza negoziata su un programma comune, su un manifesto comune. Noi non crediamo di poter mettere una firma su una cosa fatta completamente da altri. Per esempio, io leggevo qui parlo a titolo personale, di imposte, di patrimoniali, siccome io ormai mi sono convinto che purtroppo oltre una certa soglia le tasse sono la malattia e non la cura, io sinceramente una firma su un manifesto che è una patrimoniale non la metterei, ma poi è il mio presidente che deciderà, anche perché la patrimoniale, diciamolo così, gli ascoltatori magari se ne rendono conto un po' meglio, al di là di questi, diciamo, benefici effetti redistributivi, ma la patrimoniale è semplicemente una revisione retroattiva e limitata nel tempo delle imposte sul reddito, cioè lo Stato a un certo punto dice: sai che c'è, ho sbagliato, non era 43% la tua aliquota marginale degli ultimi 10 anni, facciamo che è 45. Quindi sempre un'imposta sul reddito è posticipata o anticipata, è una questione di dettaglio. Invece, posso senza interromperlo a fare un inciso dicendo che su questo Oscar Giugno la pensa integralmente come Mariano Bella, editore o non editore, gliel'ho detto a Emma Marcegaglio fin dall'inizio. Se gli imprenditori dicono viva la patrimoniale, lo dicono al loro titolo, io criticherò anche loro. Chiuso l'inciso. Sì, no, ecco, no, poi in realtà la Confindustria dice abbassiamo altre imposte, va benissimo, c'è il discorso anche di spostare il carico fiscale dalle persone alle cose. In realtà sto carico fiscale dalle persone alle cose semplicemente si può ottenere abbassando dell'1% l'aliquota, tutte le aliquote dell'imposta sul reddito, così diciamo la proporzione cambia, non c'è bisogno di aumentare altre imposte. Siamo invece perfettamente d'accordo sul discorso crescita, cioè sul discorso infrastrutture, sulla revisione dei requisiti anagrafici in termini di previdenza, ma su questo devo spendere una parola, perché non bisogna neppure essere troppo ingenui. Il fatto di portare i requisiti anagrafici delle donne esattamente come i requisiti anagrafici per gli uomini deve comunque ricordarci che le donne hanno delle discontinuità nelle carriere e quindi nelle vite contributive, che sono delle discontinuità naturali su cui l'umanità si basa: la maternità, il fatto di aiutare gli anziani, il fatto di fare famiglia e di creare una rete sociale. Di questo bisognerebbe tenere conto, perché se no io non me la sento di dire facciamo che siamo tutti uguali, perché sarebbe folle. Quindi infrastrutture, pensioni, riduzione dei costi della politica e della burocrazia, siamo perfettamente d'accordo. Sulle tasse francamente no, parliamo di riforma fiscale, ma andiamoci cauti. Ho visto che c'era un'intervista oggi di Sangalli in cui anche sulle liberalizzazioni e professioni c'erano giudizi che mi sembravano convergenti. Guardi, su questo anche i suoi ascoltatori lo sapranno perfettamente. Prendiamo le cose che dice l'antitrust, noi siamo sempre stati per le liberalizzazioni, ma che siano liberalizzazioni vere. Prendiamo l'antitrust, prendiamo le ultime relazioni annuali degli ultimi 3 anni e vediamo che cosa c'è scritto. E c'è scritto trasporti, servizi pubblici locali, aeroporti, a banche, assicurazioni, il problema delle assicurazioni, delle garanzie accessorie sulla concessione dei mutui, sono temi che i cittadini conoscono perfettamente anche sul piano personale. Quindi lavoriamo su questo. Se poi per liberalizzazione dobbiamo intendere il solito, diciamo, giochetto di liberalizzare il commercio, noi non è che non ci stiamo, noi diciamo guardate che è già liberalizzato, lavoriamo sulle cose importanti, no? Che hanno a che fare con la vita dei cittadini. Perfetto, veniamo, io prego il presidente Zuccato poi di stare perché concludiamo con lui, sentiamo qualche ascoltatore, cominciando con Stefano da Roma, prego, brevi naturalmente come sempre, Stefano dica. Salve, buongiorno, io sono un imprenditore romano, faccio l'imprenditore da un anno e non ridico le difficoltà, diciamo, che sto affrontando nell'avviare un'attività di questi tempi, dove lo Stato non ti aiuta per niente. Detto ciò, io sono molto perplesso nella capacità di questo governo di mettere in piedi un piano, diciamo, di sviluppo, perché non l'ha fatto in 3 anni e mezzo, un piano non lo si fa in una settimana, e in questo paese manca completamente un approccio strategico alle linee di sviluppo. In quali settori vogliamo crescere? Il turismo, l'industria leggera, l'industria pesante, i trasporti, non si sa, e in una settimana non ce la faranno mai. La ringrazio. Quindi scetticismo maggiore di quello di Angeletti, per così dire. Sentiamo Andrea che chiama da Bologna, prego Andrea, rapido come sempre. Sì, buongiorno, grazie mille Giannino, apprezzo molto lei la sua trasmissione. Io sono un funzionario di una confederazione di categoria, io quando sento dire di piccole imprese, diciamola chiaramente, io quando sento dire Marcegaglia che continua a insistere sul discorso del taglio, occorre il taglio alla spesa pubblica, guardi, io sono uno che va in treno a lavorare, siamo passati da avere 6 vagoni sul treno locale ad andare con la littorina. Io non so francamente, lo dico da funzionario di associazione di piccole imprese, dove si va a tagliare? Cioè il prossimo passaggio qual è? Io sono, e questa è una domanda, non lo so nemmeno io, perché io vedo quello che vedo tutti i giorni. No, no, Andrea, però io questo le dico, senza sostituirmi ovviamente a Confiducia, suo presidente, quando ci sono queste richieste da parte di Confiducia si aggiunge sempre e il punto non è quello adottato in questi anni dei tagli lineari, ma il punto è di distinguere ciò che serve difendere, magari anche potenziare, da ciò che invece occorre incidere. Da questo punto di vista, per esempio, la richiesta di un allineamento, di una convergenza rapida tra tetti di anzianità e vecchiaia nei trattamenti è l'esempio classico, perché noi abbiamo speso 230 miliardi di euro nel 2010 per i trattamenti previdenziali, questa cifra arriva a 270 miliardi nel 2014. Nel 2010 l'equilibrio, il famoso equilibrio degli enti previdenziali pubblici è avvenuto con 74 miliardi di trasferimenti a carico della fiscalità generale, nel 2014 sono oltre 100 i miliardi per, a carico della fiscalità generale. Questo per dire, questo comparto, come quello dei costi intermedi della sanità, cioè dei costi delle forniture della sanità, sono gli esempi classici che vengono fatte da Confindustria insieme agli oneri dei servizi pubblici locali non liberalizzati, che sono in perdita, quindi ci costano dal punto di vista dei trasferimenti della fiscalità generale e fanno concorrenza sleale a imprese private che potrebbero, a più basso costo e a maggiore efficienza, non costando sulla fiscalità generale, offrire servizi pubblici anche migliori, visto che in comparti come per esempio il trasporto locale dal 97 c'è un obbligo di gara che quasi nessuno rispetta, se non con l'affidamento in house o col fatto che chi redige il bando di gara è lo stesso che poi si è aggiudicato in passato e ha continuato ad aggiudicarsi e si aggiudicherà nel tempo il servizio stesso. Sentiamo Giovanni da Pisa ancora, rapido. Sì, buongiorno Oscar Giannino. Sarebbero tante le cose da poter dire dalle assicurazioni ai petrolieri che ci stanno affamando, ma io sono artigiano e faccio parte di quel tessuto produttivo formato da circa il 90% delle aziende, che sono piccole e piccolissime aziende, e abbiamo sempre più bisogno della collaborazione delle banche, della collaborazione, sottolineo, ma le banche che fanno? Hanno aumentato, raddoppiato, triplicato, quindi 100-200% il costo della tenuta dei conti correnti. Praticano l'anatocismo a dismisura, senza fregandosi neanche se è proibito. Si va a chiedere un prestito se non c'è qualcuno che mette la fiduzione, assolutamente, già non lo danno perché non c'è più liquidità nelle banche. E se c'è qualcosa, ma come si fa ad andare avanti così? Qui ci vuole qualcosa veramente che tuteli, che cerchi di portare avanti quelle che sono le piccole, piccolissime, che poi sono il tessuto produttivo dell'Italia, ma non abbiamo la possibilità di poter andare avanti, siamo affogati da tante cose. Io mi auguro che quello che verrà praticato di questi soldi che verranno prestati alle banche vada in porto, ma che non servono per staccare assegni quelli che sono le poltrone alte, come è successo in America, assegni milionari per queste persone. Qui c'è bisogno della collaborazione di tutti, non si può fare i carburanti il doppio di quello che costava quando il petrolio costava il doppio. Giovanni, io la devo interrompere per dire che questo è un tema delicatissimo, ci torniamo sopra con Zuccato e con Bella dopo le interruzioni sulla circolazione stradale, perché nel frattempo le banche diventano come sempre la trincea più avanzata da difendere, perché il costo del denaro incorpora a breve il rischio paese, quindi sulla provvista di liquidità delle banche noi corriamo seri rischi, come li stanno correndo addirittura maggiori dei nostri francesi, perché l'area che girava a Parigi era che, se continua così, devono nazionalizzare Société Générale, tanto per dirne una. Quindi torniamo esattamente come nel 2008, non aver separato il rischio paese, i debiti sovrani, da il rischio bancario, col fatto che ogni paese europeo ha voluto tenere la sorveglianza, la vigilanza e i salvataggi bancari come un recinto di sovranità nazionale, ci espone a questo punto giustamente all'accusa mondiale di essere noi di nuovo quelli che fanno il contagio bancario come nel 2008. E la differenza è che poi l'America aveva risorse nel bilancio pubblico e nella politica monetaria che ha pompato incessantemente per tutti e per tutto, comprese banche europee, mentre noi adesso abbiamo l'accesso al debito pubblico e la BCE, giustamente, secondo me riottosa, a voler fare la stessa cosa che si fece allora in America. Tanto per continuare su quello che dicevamo prima, la necessità di ricapitalizzare le banche, visto anche che la loro capitalizzazione è scesa ai minimi termini, Mediobanca dice che Unicredit avrebbe bisogno di altri 6-7 miliardi, Ghizzoni non so come faccia con i suoi azionisti nelle condizioni attuali senza dividendi e di fronte al fatto che oramai quotando così poco qualcuno dall'estero può essere molto tentato di mettere qualche miliardino e portarsi a casa una banca che oggi vale meno di 2/3 dei soli asset che controlla a Libro, a valore di Libro in Austria. E non c'è bisogno in Austria di spiegarvi che non bisogna fare write off, non stiamo parlando di un paese fallito. Ancora rapidissimo, Ruggero da Brescia, prego Ruggero. Salve, ringrazio per avermi fatto parlare. Volevo molto rapidamente L'Italia secondo me si può paragonare adesso a un essere umano che ha delle forti emorragie. Quando io sento parlare di cartolarizzazioni, di dismissioni, privatizzazioni, è come se ci proponesse di fargli delle trasfusioni. Ora, io sono d'accordo, però mi sembra che finché non si chiudono tutte queste emorragie non serve altro che debilitare anche a tutto quello che può dare una mano. E per quello intendo dire cose sul tipo i famosi diritti acquisiti, perché che tutte le volte continuano a chiedere sacrifici a quelli che dovranno andare in pensione e molte altre persone che invece hanno avuto dei grossi e assolutamente ingiustificati privilegi, quelli non li si tocca. Non so fino a che punto la gente sarà disposta a accettare una cosa del genere. Vai, Ruggero, però intanto chiedere allo Stato di dismettere non significa toccare la gente. Credo che ha ragione lei, se quando si fanno dismissioni patrimoniali bisogna anche farle con la cortesia di chiedere alla politica di non continuare con lo stesso poi spendi e spandi di prima, perché altrimenti è inutile. È avvenuto con le privatizzazioni italiane come è avvenuto con le patrimoniali nelle tasche degli italiani ai tempi di Amato. Quindi su questo sono d'accordo con lei. Abbiamo ancora rapidissimamente Federico da Padova. Prego Federico. Sì, buongiorno. Io volevo, grazie per avermi dato il tempo di poter esprimere qualcosa. Io ho la fortuna di lavorare all'estero, girare un bel po' il mondo a livello di consulenze e ristrutturazioni aziendali. Noi volevo semplicemente dire che abbiamo un paese meraviglioso, tutti quanti parlano che le persone all'estero ci ridono un po' dietro, però tutti ci invidiano perché abbiamo delle grandissime potenzialità. Secondo me potremmo sicuramente da un punto di vista economico risolvere questa situazione attraverso dei tagli, non sulla spesa corrente, ma tagli alle pensioni, superpensioni, privatizzazioni e vendita di asset, perché qualsiasi politica di rilancio oggi comporta minimo da 5 a 10 anni di tempo per vedere i risultati. Giannino lo sa meglio di me. Lo so, grazie, grazie Federico, la interrompo semplicemente perché un minimo di nota di ottimismo ci voleva anche, proposte concrete. L'ultima ascoltatrice rapidissima, Francesca da Biella. Prego Francesca. Buongiorno dottor Giannino, io l'apprezzo, però vorrei farle una domanda. Ma come mai lei, che è sempre chiaro ed è ascoltato, non dice molto chiaramente a Berlusconi che deve andare a casa, che segua l'esempio di Zapatero? Bisogna dirlo chiaramente, lo dice tutto il mondo. Lo dica anche lei che è ascoltato. Francesca, guardi che forse si è persa qualche trasmissione, perché sulle misure estive di questo governo ne ho dette di ogni colore. La mia opinione netta è che questo è un governo che ha perso la credibilità. Ma non è che le sto rispondendo a lei. Pensa che la mia opinione chissà quanto conti. Lo dica. Figuri. Qua riceviamo messaggi, anche oggi c'è un po' che dicono citate il vostro presidente di Confindustria. Certo che citiamo il nostro presidente di Confindustria, perché io penso che questa spallata, questa scrollone, mica ha ragioni politico, perché Marcegaglia vuole entrare a far politica, come pensano i miei colleghi giornalisti un po' troppo poveri di fantasia. Il problema è saper vedere l'emergenza di ciò che le imprese, non solo Confindustria, le piccole imprese, l'artigianato, il commercio, ha chiesto in questi due anni incessantemente per respirare. Cosa hanno ottenuto in cambio? Più tasse da chi da 17 anni ne prometteva di meno. Questa è la mara verità. E litigano tra loro, Tremonti, Berlusconi. Bisogna sentire il PDL che dice adesso lo cacciamo, adesso lo facciamo. Ma queste sono cose di persone non all'altezza dei problemi di un paese che ha queste strepitose possibilità e capacità, come ci ricordava l'ultimo ascoltatore. Francesca, le basta questa chiarezza? Allora, abbiamo per la conclusione una mia ultima domanda a Mariano Bella di un minuto, dicendo il suo giudizio in realtà rispetto a come si stanno mettendo le cose con le banche per il vostro settore. Noi abbiamo documentato come la traslazione sui clienti del rischio paese sulla provvista di capitale sia un po' inevitabile ma sia molto forte. Mariano, che cosa bisogna attenderci da questo punto di vista? Qui il rischio è che le banche hanno i loro problemi, li stanno giustamente in parte passando su di noi. Gli ultimi sondaggi e le ultime verifiche fatte anche attraverso la Banca d'Italia dicono che non c'è un credit crunch vero e proprio, ma comunque la restrizione sul credito c'è. Ovviamente può anche accadere, che anzi è verosimile che accada a causa delle prospettive recessive, che le imprese stesse chiedano meno soldi alle banche, le quali banche a quel punto saranno completamente assolti, diciamo, da questi poli di credit crunch, perché non c'è domanda di credito da parte delle imprese. Il futuro prossimo a nostro avviso non è tanto favorevole, e noi da questo punto di vista siamo d'accordo con banking industria, chiediamo veramente un cambio di passo sulla crescita, se no banche non banche, imprese non imprese, liberalizzazione non si va verso la Presidente Zuccato, può garantirci che i più dei suoi iscritti nel chiedere questa cosa non hanno in testa di candidarsi alle elezioni, ma semplicemente di dire alla politica che questa è serietà o meno, o no, mi sbaglio? No, glielo garantisco, nonostante qualche passato recente. Oggi quello che stiamo proponendo, quello che stiamo richiedendo è solo un focalizzare, un qualcosa che stiamo chiedendo da tempo, come lei ha giustamente ricordato prima. Oggi bisogna intervenire, ma bisogna intervenire velocissimamente, perché questa credibilità del Paese la si conquista con le azioni. Il discorso che facevo prima, che lei ha ripreso sul grande rischio di credit crunch, per me è una delle preoccupazioni maggiori, perché in questo momento o riusciamo a ridare credibilità con un intervento che vada nella direzione della crescita, come si diceva, o altrimenti rischiamo davvero un peggioramento della situazione. Oggi ci sono, io capisco che non tutte le categorie possono essere d'accordo su determinati punti e si può andare a ridiscuterne assieme, però la proposta che è stata fatta è una proposta che cerca di mettere un insieme coerente di interventi, perché non si può intervenire su alcune cose e su altre no, ci vuole un intervento omogeneo e coordinato. E di fronte a questa richiesta vedremo a questo punto quale sarà davvero ad ora, entro un paio di giorni, la risposta del governo. Io ringrazio il presidente Roberto Zuccato, ringrazio Mariano Bella, ringrazio l'onorevole Guido Crosetto, ringrazio voi tutti in ascolto e le vostre domande. Linea Giornale Radio, appuntamento a domani da Genova. Domani uno dei nodi che toccheremo domani sono le infrastrutture. Da Genova a domani. 9 in punto.